Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Diciannove, diciassette minuti, 30 secondi. Buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. Benedetta Acri, Laura Faggini in redazione, in regia c'è Paolo Corleoni. Le coordinate per interagire con noi, la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666, il profilo Facebook nessunluogolontano-radio24, infine Twitter nessunluogo24. Allora, questa sera restiamo in Europa, andiamo in Bulgaria. Perché la settimana scorsa si è votato per il Parlamento, il partito conservatore GERB ha ottenuto la maggioranza dei voti, ma non ha esattamente vinto questa tornata elettorale, contro i socialisti, 32% circa da una parte, 27% dall'altra. Affluenza alle urne molto molto bassa, dispersione dei voti fra i tanti partiti in lizza, sospetti, tentati, brogli, il tutto in una situazione economica piuttosto critica anche dal punto di vista sociale. Nel mese di marzo almeno 6 cittadini si sono dati fuoco per protestare contro le misure di austerità e una crisi economica che da tempo attanaglia il paese. Questo è il quadro di un paese che andremo a cercare di comprendere meglio, e lo facciamo andando a Sofia con Francesco Martino, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso. Francesco, buonasera, benvenuto Nessun luogo lontano. Buonasera a te e a tutti quelli in ascolto. Allora, innanzitutto ti chiederei un commento sull'esito di questa tornata elettorale. Sì, le elezioni in Bulgaria hanno prodotto una situazione che con due aggettivi definirei inedita e paradossale. Inedita perché per la prima volta dall'inizio della transizione democratica un partito, in questo caso GERB, il partito di centrodestra, è riuscito a rimanere prima forza in Parlamento dopo aver governato 4 anni. Fino ad oggi i cittadini bulgari avevano sempre punito chiunque fosse andato al governo, però anche paradossale perché questo stesso partito ha chiesto l'annullamento del voto e perché la seconda forza in Parlamento, quindi teoricamente gli sconfitti, ha invece proposto alle altre forze che sono entrate nel Parlamento di formare un governo. Quindi in qualche modo si sono ribaltati i ruoli tra la prima e la seconda forza politica nel paese. Questo è tra l'altro una situazione che è ancora in pieno svolgimento, quindi ancora non è chiaro quale sarà lo sbocco di questa situazione piuttosto confusa. Sì. Prima di addentrarci meglio nell'analisi, che paese è la Bulgaria? Numeri e date per meglio comprenderlo. Situata nei Balcani orientali, la Repubblica di Bulgaria ha una popolazione di circa 7 milioni e mezzo di abitanti, in prevalenza cristiani ortodossi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Bulgaria diviene un satellite dell'Unione Sovietica. Ad oggi è un paese membro dell'Unione Europea e della NATO. La sua transizione verso la democrazia e l'economia di mercato dopo il crollo del comunismo non è facile. Durante i primi anni 90, la Bulgaria è devastata da instabilità politica e scioperi. Anche se la fine del decennio è più stabile, sono pochi i progressi concreti fatti, in particolare riguardo alla riforma economica. La Bulgaria non è tra i paesi invitati ad aderire all'Unione Europea nel 2004. Tuttavia, firma un trattato di adesione nell'aprile del 2005 e si unisce nel gennaio 2007. I funzionari dell'UE fissano dei requisiti di accesso difficili, che riflettono le loro preoccupazioni per la corruzione e la criminalità organizzata diffuse nel paese, invitando la Bulgaria ad adottare misure urgenti per contrastare questi problemi e poter così entrare nella zona Schengen. Nel luglio del 2009 le elezioni vengono vinte dal partito GERB di centrodestra, guidato dal sindaco di Sofia, Boyko Borisov. Nel marzo 2013, dopo non essere riuscito a convincere uno dei leader dei principali partiti politici a formare un governo, il presidente Plevneliev nomina un gabinetto ad interim, guidato da Marin Rajkov, con il compito di organizzare e guidare il paese fino a nuove elezioni. Nel maggio 2013, il partito GERB di centrodestra del primo ministro Boyko Borisov batte di poco i socialisti nelle elezioni parlamentari, ma è ben lungi dalla maggioranza. Ciò provoca scontri tra manifestanti e polizia, rimane alta la tensione sociale. La campagna elettorale è segnata anche da uno scandalo intercettazioni che coinvolge l'ex premier Borisov. Lo scandalo è innescato da una denuncia di Sergei Stanishev, ex primo ministro e leader del Partito Socialista Bulgaro, che denuncia l'utilizzo illegale di intercettazioni ai danni di politici ed altri esponenti dell'opposizione. Come se non bastasse, la procura sequestra 350.000 schede elettorali, stampate in più rispetto al numero legale. Un intervento che fa sospettare un tentativo di alterare il voto. Allora, Francesco Martino, questo mistero su queste 350.000 schede stampate in più, puoi aiutarci a capire meglio che cosa è accaduto, o meglio, chi ha tentato di fare cosa e poi non c'è riuscito? Ma su chi abbia tentato di fare che cosa e se effettivamente sia stato tentato una manipolazione delle elezioni è ancora materia di dibattito. La procura sta indagando. Quello che c'è di certo fino ad oggi è appunto che queste schede sono state rinvenute in una tipografia nella cittadina di Kostinbrod, non lontana da Sofia, e che la proprietà di questa tipografia, che aveva vinto l'appalto per stampare le schede elettorali, è di un consigliere comunale di GERB, quindi diciamo in qualche modo c'è un legame tra questo partito politico e questo ritrovamento, però non sono state fatte delle accuse particolareggiate da parte della procura, quindi una storia ancora che rimane, diciamo, da essere sviscerata fino in fondo. Certo, insieme ad altri segnali che hanno accompagnato tutta la campagna elettorale, è certamente un elemento preoccupante rispetto allo stato della democrazia e della possibilità di esprimere liberamente il proprio voto oggi in Bulgaria. Ecco, Francesco Martino, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, vive peraltro a Sofia. Un altro capitolo preoccupante è il capitolo economico del paese. Si dice essere il paese più povero dell'Unione Europea. È questa la grande sfida che sono chiamati a risolvere i politici bulgari? Qual è la grande emergenza? Sì, direi che assolutamente il capitolo economico è di fondamentale importanza. C'è da dire che per affrontare questo nodo ci sono dei problemi da risolvere che sono in qualche modo connessi, altrettanto importanti. Innanzitutto il problema della corruzione nell'amministrazione pubblica, che pesa moltissimo sulle possibilità di sviluppo del paese, e ci sono anche problemi seri rispetto alla presenza di criminalità organizzata che, come succede in altre zone d'Europa e anche d'Italia, frena sia gli imprenditori locali ma anche l'afflusso di capitali dall'estero, quindi tutta una serie di problemi che, se non affrontati, difficilmente il governo bulgaro difficilmente può riuscire a dare una spinta forte all'economia. Sì, fra l'altro tutto ciò si riflette ovviamente in un malcontento sociale, lo dicevamo a inizio di trasmissione. A marzo vi sono stati quella che la stampa ha etichettato come ondata di suicidi. È chiaro che scrivere e parlare di queste cose, come dire, si riduce sempre il dramma umano a slogan e a titoli, però almeno sei autoimmolazioni nel mese di marzo, pare quasi tutti legati appunto al disagio economico, al fatto che insomma non ci sono più soldi, non si riesce ad arrivare a fine mese, non si riesce ad arrivare a sera in Bulgaria. Come si può leggere questo fenomeno, Francesco? Sì, è molto difficile esprimersi su un fenomeno comunque così legato anche a drammi personali. C'è da dire però che buona parte di questi eventi appunto è stata associata a condizioni di vita, a condizioni economiche particolarmente delicate. C'è da dire che se buona parte di questi suicidi sono legati a storie personali che hanno a che fare con mancanza di lavoro e di prospettive, ce n'è una che si distanzia in modo abbastanza significativo, che è l'autoimmolazione di Plamen Guranov, questo attivista che si è dato fuoco nella città di Varna durante le grandi manifestazioni contro il governo che hanno segnato il periodo di febbraio-marzo di quest'anno e che invece ha un chiaro significato di testimonianza politica. Quindi in questo caso c'è, come posso dire, la tragedia rimane dal punto di vista umano la stessa, però c'è anche appunto un significato politico molto forte e molto diretto. Sì, fra l'altro, come dire, quanto gli effetti dell'austerità, della crisi economica colpiscono seriamente molti paesi europei, molte popolazioni, è al centro di un saggio che è appena uscito in Inghilterra, dovrebbe uscire anche in Italia, che si chiama The Body Economic, Why Austerity Kills, perché l'austerity uccide, scritto da David Stackler e Sanjay Basu. Il primo è un economista di Oxford, il secondo è un medico che punta ferocemente e impietosamente il dito contro i tagli alla spesa sanitaria, i tagli allo Stato sociale, e dimostra, guardando i dati, le statistiche di 10 anni, quanto appunto l'austerità uccide letteralmente e materialmente. Nessun luogo è lontano. La Bulgaria all'indomani delle elezioni parlamentari, un fondamentale impasse politico, mentre quello che resta è sicuramente una crisi economica, quello che restano sono le misure di austerità e una risposta che dal punto di vista sociale è drammatica, perché ricordavamo appunto i casi di suicidio per autoimmolazione. Vi dicevo di questo saggio scritto da un economista e un medico, perché l'austerity uccide. David Stackler è uno degli autori di questo libro. A lui ho chiesto, data l'evidenza di questi 10 anni di statistica, di come tagliando la sanità pubblica alla fine si hanno degli effetti drammatici sulla popolazione, non si ha accesso ad esempio ai farmaci fondamentali, alle cure mediche, c'è un incremento ad esempio di casi di HIV tra i tossicodipendenti, allora come fanno a essere così ciechi i politici? Questa è stata la mia domanda a David Stackler. Yes, it's true. Our book has a stark message that recession hurts. E lui dice: sì, è vero, il nostro libro lancia il messaggio che la recessione colpisce, ma l'austerità può uccidere. E ci siamo basati sulla ricerca dell'ultima decade, guardando a come le maggiori crisi economiche hanno influito sulla nostra salute in Europa e negli Stati Uniti. Che cosa è accaduto? Che i nostri politici, dice Stackler, hanno continuamente dibattuto su debito e deficit, ma senza dare retta, senza focalizzarsi sui costi umani delle loro decisioni. E come questo sia avvenuto, dice Stackler, è una sorpresa, perché ad esempio la Commissione europea avrebbe tra i suoi compiti anche quello di valutare l'impatto sulla salute delle scelte di politica economica. E fino adesso, conclude Stackler, non c'è stata questa valutazione. Di nuovo a Sofia con Francesco Martino. Perché? Perché la Bulgaria l'austerity la conosce bene, vero Martino? Sì, l'austerità in Europa è una parola che è divenuta di moda, direi tristemente, a partire dalla crisi del 2008. In Bulgaria è un concetto e una pratica politica che invece ha delle radici più profonde, perché fondamentalmente è stata applicata nel paese fin dalla grande crisi economica, bancaria e finanziaria del 1997. Da quel punto in avanti l'economia è stata riequilibrata attraverso le politiche consigliate o imposte a seconda dai punti di vista dal Fondo Monetario Internazionale, che fondamentalmente ha chiesto alla Bulgaria di avere sempre i conti a posto, anche a costo di tagli pesanti a tutti quelli che sono i principali servizi che lo Stato solitamente offre ai propri cittadini. Parliamo del sistema sanitario, parliamo dell'istruzione, parliamo del pagamento di pensioni, che in Bulgaria sono a un livello estremamente basso. quindi quello che oggi succede in qualche modo in Bulgaria ha radici economiche e sociali che si sono sviluppate nell'arco di una quindicina d'anni e che sicuramente hanno effetti, hanno avuto e hanno ancora effetti molto pesanti. Basta pensare che dalla Bulgaria sono emigrati circa 2 milioni di persone negli ultimi 20 anni, la Bulgaria oggi ha una speranza di vita che è molto bassa nel contesto europeo, quindi insomma tutta una serie di indicatori che parlano di una società estremamente stressata. Ecco, in questo quadro che ci dipingi ti chiedo un'ultima cosa in estrema sintesi, perché poi vi faccio risentire ancora David Stackler che entra nei dettagli della sua analisi. Fatta questa fotografia del paese, a che ruolo può ambire la Bulgaria in Europa nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Questa è una domanda che probabilmente la Bulgaria ancora non si è posta in modo sufficientemente serio. Per oggi, fino ad oggi, il dibattito in Bulgaria è focalizzato soprattutto su quello che l'Unione Europea può dare alla Bulgaria. Questo probabilmente anche a causa del grosso squilibrio. La Bulgaria è un paese piccolo, abbastanza marginale geograficamente e anche piuttosto povero all'interno dell'Unione Europea, quindi tutto il dibattito fino ad oggi, dall'ingresso ma anche prima dell'ingresso, è stato focalizzato su quanto e come la membership europea può aiutare la Bulgaria a modernizzarsi, a diventare un paese più efficiente sia dal punto di vista dell'amministrazione quanto dello sviluppo economico. Sul ruolo che la Bulgaria può giocare all'interno dell'Unione Europea, devo dire che appunto il dibattito, almeno qui sul posto, è ancora abbastanza anemico. Spero, personalmente spero, che i bulgari trovino le forze per chiederselo in modo più approfondito, perché è una domanda senza la cui risposta difficilmente la Bulgaria riuscirà a sfruttare veramente fino in fondo la propria membership all'interno dell'Unione Europea. Certo, perché in fin dei conti vuol dire definire la propria missione all'interno del continente. Grazie per la tua analisi, Francesco Martino, corrispondente Osservatorio Balcani e Caucaso da Sofia. Buona serata, buon lavoro. Buona serata a voi tutti. Eh sì, perché c'è anche il rap bulgaro che canta tutta la sua rabbia contro quell'austerità che ci aiutava a capire Francesco Martino. È, come dire, un austerity ante litteram, se mi consentite il termine. Il filo rosso che lega i temi che stiamo trattando questa sera è il titolo di questo libro, Why Austerity Kills, di David Stackler e Sanjay Basu. A David Stackler ho chiesto anche di stilare questa classifica. Quali sono il migliore e il peggiore paese in Europa nella risposta alla crisi economica, e lo ascoltiamo insieme. To highlight our thesis that austerity can be deadly, let me cover two extremes. Greece is in the middle of a public health. Allora lui dice, prendiamo due estremi. La Grecia è nel mezzo di una catastrofe della sanità pubblica, dice lui. La Troica ha fatto in modo che il bilancio sulla sanità fosse tagliato di più del 40%. E allora, dopo aver tagliato anche il programma di controllo delle zanzare, c'è stato il ritorno della malaria nel Peloponneso, eradicata, pensate, fin dal 1974. E quel programma lì è un programma che andava fatto in primavera. Senza fare quel programma, poi ovviamente la malaria si è diffusa. E poi il problema della prevenzione tra i tossicodipendenti dell'HIV. Dice che i nuovi casi di HIV sono aumentati del 200%, concentrati soprattutto tra chi usa droga che si inietta con le siringhe, proprio perché è stato tagliato il programma contro lo scambio degli aghi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, ricorda Stackler, raccomanderebbe per esempio ad Atene per ogni consumatore di droga circa 200 aghi puliti ogni anno, quando in realtà ce ne sono solo tre. E poi ricorda che i greci hanno perso l'accesso a 200 farmaci essenziali diversi, che sono troppo costosi e quindi i greci non riescono a pagare, che sono letteralmente spariti dalle farmacie. Ecco alcuni dei tanti effetti negativi delle misure di austerità. All'estremo opposto, Stackler parla invece dell'Islanda. Olanda, che ha sofferto sì una grande crisi. Il crash, come dice lui, delle banche ha fatto schizzare il debito pubblico dell'800%, cioè 4 volte più di ogni altro paese in Europa o in Nord America. E qui ricorda le scelte politiche islandesi. Nel 2010, in un referendum, il 93% degli islandesi ha votato contro il finanziamento delle banche tramite tagli alla spesa sanitaria. Anzi, ricorda Stackler, cosa hanno fatto i politici islandesi? Hanno spinto tutti gli aiuti al sistema sanitario e sociale e nessuno ha perso l'accesso alla sanità pubblica, non ci sono state crescite nei tassi di suicidio o di depressione. Fra l'altro l'Islanda era un paese che era noto, tristemente noto, per avere tra i tassi di suicidio più alti in Europa. E lui dice che nel 2006 l'Islanda era valutata una delle società abbastanza felici nel mondo, nel 2011, dopo la crisi, è diventata una delle più felici al mondo, nonostante una crisi economica devastante. E ancora una volta dice: questo supporta la nostra argomentazione. Stando ai nostri dati, anche una crisi economica di larghe proporzioni non necessariamente dovrebbe provocare un collasso della sanità pubblica. Quello che veramente importa sono le risposte dei politici, dice Stackler. Quando fanno tagli indiscriminati, la crisi diventa epidemica. Allora, David Stackler prendeva due casi estremi, la Grecia da una parte, l'Islanda dall'altra. Noi andremo in Grecia. Nessun luogo è lontano. Attenzione, attenzione agli effetti delle scelte economiche su quella che è la salute, su quella che sono le spese di sanità pubblica. E questo è l'indice puntato di David Stackler e Sanjay Basu, due autori, un economista e un medico, che hanno analizzato dati degli ultimi 10 anni e hanno scoperto che l'austerità può uccidere, letteralmente. Come dicevamo, come raccontava anche Stackler, un paese in Europa che non se la passa affatto bene è la Grecia. Allora abbiamo voluto indagare un po' meglio quali sono gli effetti dispiegati dalla crisi economica ancora sulla sanità, sulla salute pubblica. E allora ho chiesto proprio questo fattore, quanto la crisi economica stia impattando ancora sulla salute pubblica, ad Apostolos Feizis, che dirige l'unità di Medici Senza Frontiere ad Atene. I think the crisis in Greece that started In Grecia la crisi che è iniziata qualche anno fa sta avendo un forte impatto sulla salute delle persone. E questo è collegato al fatto che molte persone sono diventate più vulnerabili. Perché da una parte la gente non riesce ad accedere alle cure mediche e dall'altra i servizi della sanità pubblica sono stati notevolmente ridotti. L'impatto di questa crisi non è misurabile in un aumento della mortalità. Ma ci sono dei segnali chiari come l'aumento della diffusione dell'HIV nella popolazione dei tossicodipendenti del centro di Atene, l'aumento del 40% dei suicidi nel 2011 rispetto al 2009. Ci sono poi persone che soffrono di malattie croniche, come appunto i malati di AIDS o di cancro, che hanno perso l'accesso alle cure. Ecco, credo fra l'altro che il medico, il dottor Apostolos Feizis, abbia in qualche modo risposto anche a un ascoltatore che chiedeva via SMS al 349-238-6666. Vi sembra giusto fornire gli aghi ai tossicodipendenti? Va non vietare, ma certo non incentivare. Vabbè, c'è un refuso nel messaggio, dice: va bene, non vietare, ma almeno non incentivare. Beh, il risultato è questo: il tossicodipendente comunque cercherà di iniettarsi la dose e lo farà con un ago già utilizzato. Chi molto spesso, quando ci sono fenomeni di questo tipo, riesce a indagare andando in profondità nelle pieghe dei fenomeni della società è il fotografo. Perché? Perché normalmente lavora su progetti di lungo termine. Entra nelle situazioni, parla con le famiglie, va per le strade. Chi lo ha fatto è Mimi Mollica, che è un fotografo italiano, è di base a Londra. L'anno scorso ha lavorato per 2 mesi ad Atene. A lui abbiamo chiesto di consegnarci una fotografia di quella società ateniese. Quello che ho visto in Grecia, ad Atene, è stato veramente raccapricciante, perché ho visto una miseria dilagante e ho visto per le strade un incremento pazzesco di senza tetto e tossicodipendenti e di prostituzione. Nelle case ho parlato con le persone, con i greci, e mi hanno raccontato storie agghiaccianti riguardo la loro situazione economica e di salute, visto che il governo ha tagliato i fondi e non offre più le medicine. Le persone che non hanno altri mezzi, altre risorse, non possono comprarle privatamente, quindi la questione della salute è la prima emergenza che ho riscontrato. Quelle misure dell'austerità avrebbero avuto un effetto devastante su tutta la società, tranne appunto la piccolissima percentuale di super ricchi. È una cosa che qualsiasi economista, qualsiasi esperto di politica o di socioeconomia avrebbe già previsto. In Grecia tutto ciò è avvenuto in modo ancora più crudo, perché la Grecia non era pronta come altri paesi che hanno una storia politica un po' più solida. La cosa che mi ha scioccato, l'ultimo giorno che sono stato ad Atene, proprio quando sono partito, lo stesso giorno, 2 ore prima di partire per ritornare qua a Londra, si era sparato un pensionato nella piazza nella quale ero stato la stessa mattina nelle prime ore del giorno, e questo ha marcato ancora di più la mia sofferenza nel lavorare su questo progetto fotografico. L'impressione è stata veramente veramente triste. Da un lato però devo dire che i greci ad Atene non si sono fatti schiacciare totalmente, cioè le generazioni più giovani sono quelle che hanno più voglia di cambiare, più voglia di costruire. Infatti ho visto delle reazioni molto positive di giovani architetti o designer o fotografi o artisti mettersi assieme e tentare di creare collettivi nei quali potevano costruire qualche cosa di nuovo, e quindi c'è stata una risposta molto positiva da parte delle generazioni giovani e devo dire anche ovviamente quelle che un poco se lo potevano permettere già dall'inizio. Per il resto la situazione che ho visto è assolutamente devastante. E la voce che sentite è quella di Konstantinos, che è uno dei soggetti, dei personaggi tratteggiati in un documentario che è stato pubblicato su Vice.com, che racconta gli effetti devastanti di questa nuova droga anticrisi, appunto in Grecia. La chiamano Sisa. Sisa, Cocaine of the Poor, è il documentario che Vice.com ha realizzato. Questa nuova piaga che affligge Atene costa pochissimo, questa droga ha effetti devastanti, con 1 o 2 euro si riesce a farsi, e viene fatta con sostanze facilmente reperibili, tipo detersivi ad esempio, e come dire, piove sul bagnato. Per fortuna però Mimì Mollica ci ha restituito anche, insomma, qualche traccia di speranza nel suo lavoro. Vi faccio sentire ancora Apostolos Veizis, perché diciamo una delle cose da notare è che quando si va a tagliare la sanità, la spesa pubblica, succede che un'organizzazione come MSF deve sostituirsi in qualche modo al Ministero della Salute. Of course, definitely it will be a utopic saying that MSF can cover or MSF will be able to respond to the needs of the people in Greece. Sarebbe un'utopia pensare che Medici Senza Frontiere possa risolvere i problemi della sanità in Grecia. Ma ci siamo e stiamo avviando un progetto qui ad Atene per far fronte ai bisogni delle persone più vulnerabili, i senza tetto, i tossicodipendenti, i migranti e i rifugiati. Anche l'anno scorso abbiamo lavorato in questo senso e ci siamo anche occupati dell'emergenza malaria nel Peloponneso per 7 mesi. Pensiamo che una piattaforma ben coordinata di iniziative diverse sparse nel paese potrebbe almeno far fronte ai problemi dei più deboli. Ma è chiaro che nessuna di queste iniziative può da sola risolvere la situazione generale. Per questo credo che le autorità debbano assumersi le loro responsabilità e stanziare delle risorse per coprire le emergenze. Of all the countries, so I think the authorities they need to take the responsibility and to put resources in place to cover the needs. E È chiaro che la ricetta dell'austerità non funziona, ma bisogna ricordarsi che i greci hanno vissuto per anni al di sopra delle proprie possibilità. I governi che si sono susseguiti hanno attuato politiche di spesa insensate, scrive su Facebook, sulla nostra pagina Nessun Luogo Lontano, un nostro ascoltatore. E in qualche modo l'insensatezza delle scelte politiche è quello contro cui punta il dito l'economista che vi dicevo, David Stackler, nel suo Why Austerity Kills. In buona sostanza si dice attenzione quando si taglia la spesa sanitaria. Perché alla fine è una combinazione di fattori quella che va a creare l'emergenza, come ci racconta ancora Apostolos Vazis di Medici Senza Frontiere da Atene. As I said in the beginning, the different issues related to public health, like HIV or malaria, they are not always related issues to medical or only. Come dicevo all'inizio, i problemi di salute pubblica in Grecia, come l'aumento dei casi di HIV o di malaria, non dipendono solo dalla situazione del sistema sanitario. È più una combinazione di fattori. Ad esempio, per quanto riguarda la malaria, è necessario stanziare risorse sufficienti anche per le attività connesse al controllo del vettore, cioè delle zanzare. Certi ritardi o mancanze di fondi per queste operazioni hanno certamente contribuito al ritorno della malaria. Quindi la combinazione di fattori diversi, in una situazione di crisi quando le risorse sono scarse, contribuisce a generare più emergenze. Oggi quello che le autorità greche devono fare è innanzitutto stabilire quali sono i gruppi più vulnerabili e decidere quali sono le questioni di salute pubblica più urgenti da risolvere. Issues and prioritize the most needed. Le priorità sono le scelte politiche, quello poi che va a incidere. Per restituirvi un'immagine di quello che può accadere, vi invito a dare un'occhiata intanto alla nostra pagina Facebook, perché la foto di presentazione della puntata di Mimi Mollica è molto molto eloquente. È la distribuzione dei pasti a quella che una volta era la mensa dei poveri, dei migranti, e adesso, come mi ha raccontato Mimi, ci stanno pure anche manager in giacca e cravatta con lo sguardo basso. E poi andate su mimimollica.com per vedere il lavoro che ha fatto l'anno scorso, purtroppo tragicamente attuale. Titoli di coda. Allora, non mi resta che ringraziare Benedetta Acri, Laura Faggin, che hanno confezionato con me questa puntata, Paolo Corleone, che le ha dato musica e ritmo, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è sabato prossimo, ore 19:15, quando nuovamente Nessun Luogo Sarà Lontano.